non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita, questa vita che volevo dare a te, la spicciolata tra le dita. Eccoci di nuovo in studio e così diamo la parola al nostro ospite che è l'architetto Giorgio Fantin. Buonasera. Beh, sei 20 anni che manco qua da questa radio. Come 20 anni? Ho tante che robe da contare. Passano velocemente. 20 anni di racconti devo fare, che non so neanche cosa. E allora guarda, mi metto qui tranquilla e ascolto. No, io vorrei parlare per esempio di cosa che c'è oggi a Treviso in questo momento qua, nel senso che Marco Guldin ha portato una mostra, la solita mostra, non dico nuova, ma insomma ha ricambiato un po' il nostro museo. Poi c'è Bacon che non mi piace affatto, io l'ho visto a Venezia, Palazzo Ducale, anni fa, bellissimo, un volume, ma questo mi pare cartoni, e sono cartoni, sono disegni, non sono disegni. E poi nel piano terra dall'altra settimana che è cominciato Bacon, ho aiutato un amico io, Cararito, un pittore trevigiano del Casale, che sta facendo una mostra sull'itinerario Venezia, l'itinerario di Hemingway, perché c'è il periodo di Hemingway, ha fatto tutti i quadri di posti toccati. Ecco, qua, via dei Cararesi? Sì, queste mostre in giro, e io ne ho una piccola che sto la come congrega. Stiamo facendo di mese in mese, ricordiamo un pittore che si è morto, che nessuno si ricorda più ormai. Abbiamo Giovanni Barbizan adesso. Ah, oh, sì, mamma mia. Che... mamma mia, mamma mia, ma nessuno si ricorda più di Barbizan. Un'acqua forte a casa. Abbiamo finito Censotti, Lino Bianchi Bariviera, D'Arcino, abbiamo fatto un sacco di un anno e mezzo che andiamo avanti, adesso faremo colletti a Natale. E sti pittori tutti dimenticati, i trevigiani nostri tutti dimenticati. L'altro giorno ci è mancato anche Ambrogio, e non c'è più. Invece l'unico che vive con me adesso è Lino Di Nitto, che ha 89 anni. 89 già. 89 anni, e gli spero di fargli anche stavolta, metto un calendario anche quest'anno, vuole fare qualcosa, sta facendo il libro sulle sue cose che ha fatto alla Basilica del Santo. È l'unico che si muove, che si parla ancora, insomma, perché c'è una sequenza di pittori alle spalle, ma non si è maestri, sta parola maestro, che è troppo facile così buttarla, non c'è. Se puoi parlare di Michelin, se puoi parlare del Giudice, se puoi parlare di Abate, ma tutti i pittori che c'è dopo, bravi, ma dopo, ma insomma, dopo. Questi qua. E Treviso però adesso sta godendo questo momento di arte, chiamiamola così, che merita visite, che merita anche l'amministrazione, la merita, ma che merita la città, perché sta riempendosi di movimento, le strade sono piene, insomma. Adesso po' che siamo sotto. Sì, c'è anche i mesi che si avvicina il Natale, le feste, perciò sono anche indovinate, insomma, queste cose qua. Di Barbizan avete fatto una mostra? Sì, una mostra che dura un mese, fino al 29 di dicembre. E io ho portato un quadro, e posso raccontarlo così velocemente, sì. Che trovo una volta Toi in piazza e mi dice: ho bisogno di 10.000 franchi. Io dico: ho 3.000 franchi, 5.000 franchi. No, non mi basta, voglio 10.000, mi occorrono 10.000 franchi, tutti in Rio Manta, Cagli. E ho detto: non posso, no. Ho detto: bisogna. Ora vado da mio cognato, l'orologiaio, l'orefice de Vrakin. E ho detto: guardate, ho un quadro che ho da Loca Bianca, te lo porto, è da Barbizan. Mi vado da Silvano, Silvano dammi 5.000, prestami 5.000 franchi, e dopo vediamo così, così. Arrivo in piazza con i 10.000, Toi era già quel quadro, era già andato in piazza quel quadro, e mi dava i 10.000 franchi, vado qua, anche a Beo, ho detto: ma non c'è neanche la firma. No, c'è la firma, ma c'è da Barbizan. E cioè, cosa faccio? Faccio che do il quadro a mio cognato, perché se a casa mia sapevano che spendevo 5.000 franchi per un quadro e mi tirava le ricce e correva in altre parti magari, e per 20-30 anni sono andato in Oyu, insomma, c'è cosa così. Un giorno che un mio amico Ciccini Giocanco voleva comprare una stampa, due incisioni da Barbizan, demo da Barbizan con Oscar, che era il corniciaio dei Toe, e accompagnarlo, perché andiamo su commissione. Mica avevo parlato con Barbizan, perché avevo fatto una cartella di Treviso di 4 Ambrogio, di Roberto, di Nitto e di Giorgis, 8 litografie su Treviso con presentazione di Mazzotti. Là. E allora volevo fare con Barbizan una cartella di 3 incisioni con l'orseppia, sempre cavarsi dal solito, giusto, così così. Ne avevo parlato, dopo non mi era da niente, io ora sono andato a trovarlo, ma mia mamma, che aveva le chiavi della casa di mia sorella, moglie di Devrachin, che erano al mare, ha messo in atto nel quadro che aveva le cose, e mi sono dato quel quadro. Come mi sono presentato? Si è sua porta e mi trae il primo, ora è un quadro e fa Barbizan. C'è quella roba che facevo in mia giovania, il muro del consolato inglese, che facevo dall'Accademia, così. E ieri mi fianco un gallerista di San Giorgio de Mestre che conoscevo, Mario Lucchesi, e dice: maestro, è il più bello di più bello, Marco Novatti. E ora Oscar fa, io firmo il maestro. Mica sono il solito... No, non voglio firmare. Sono contento di aver comprato un quadro da Toe, da pochi, e guardato pochi schei. Sono contento che io mi conferma che sia Barbizan, l'ho a casa da 20 anni, 25 anni, mia cognata, e so di avere un Barbizan. Quando che ho finito una casa al Monteo del mio cognato, ho detto, ciao, vorrei che il quadro vada, il nostro primo censo, guarda, come finito i lavori, come la sera con l'impresario, come finito i conteggi, che siamo dei Siena, la mattina dopo mia sorella mi ha portato il quadro, e adesso si mostra. Perfetto. Una sola precisazione per i non trevisani, eccetera, un mitico personaggio della piazza, Toe, una breve descrizione. Toe, meriterebbe una trasmissione. Toe, amico, ho fatto una mostra con tutti i quadri di Toe. Io ho a casa dei cassinari, dei Dova, di cose, perché li ho dedicati scritti a Toe. Cioè, e metto, non sta a regali, via, dammi a me, mi ti tengo, e dopo ti do, perché le robe qua sono robe uniche. Io ho fatto di tutto, crippa, tengo tutta cosa cultura che è nostra. E dopo De Barbizan mi incontro un altro particolare subito così, che crea il mercato per strada, perciò tutti i trevisani avevano paura di andare da Giraldo, che era una bella galleria o meno, ma da comprarmi non ho mai comprato un quadro in galleria. perché il pittore bisogna che io conosca che quadri che fai io, perché può darsi, certo, che classi è bello, ma avrebbe fatto anche più bei. E Toe è stato un fantastico, su un quadro di Barbizan che mi ha dato un certo Michelon qua da Merlengo. Date io che c'è 3 cartellini, uno Galleria di Santo Stefano, uno terza mostra di Treviso, cosa di Treviso, e dopo che c'è 2 timbri ovali, la scaletta, Toe che aveva la scaletta di cui era direttore Gianni Ambrogio, e che c'è su uno di 2 cose che firma Gianni Ambrogio, e ho visto che ho messo una croce, morto il 24 di quest'anno, qua che ho messo, girando il quadro, sì, qua, l'altro giorno, insomma, esatto, pochi giorni fa, lunedì scorso, insomma. Ecco questa Toe, se mica ho fatto una mostra di Toe, ho fatto un catalogo, anzi se che ne ho ancora, che ne ho per 7-8, collezionista forte, ma mi sono da trovare, non so, con Gemin, e sono andato a trovare Poliakov a Parigi. È una senza schei, lo manda via perché non era arrivato in banca ancora i soldi. Le storie da contare. Ci fermiamo allora per un'altra canzone. Un'altra canzone? Canzone, sì. Sempre di Ornella Vanoni. Innamorarsi. No, mi innamoro. aspettando in un caffè, se nascondi i tuoi occhiali, se ti pettini, cos'è? È innamorarsi, innamorarsi, innamorarsi. C'è la prima volta che si crea l'occasione di una casa senza amico o abbracciati in un portone, emozionarsi senza toccarsi, innamorarsi, scoprire il sesso da tuffarsi. Sposarsi o non sposarsi, l'importante è star con te, darti senza abituarsi ad avere in cambio me. Innamorarsi, ma litigare, avvelenarsi e con gli sguardi incominciarsi un po' a tradire. Accettare dei compromessi, ma innamorarsi di un viaggio su una stella dove certo non ci sei, verso il tutto, verso il nulla, che nel cuore, nel mio cuore adesso è lui. Qualcosa che non va è fumare, ubriacarsi, certo non gli servirà. E ritorniamo in studio per un'altra tranche di questi racconti così trevisani, così sì, artistici, proprio eccetera, con il nostro Ruspanti ospite. Li chiamiamo questi esattamente, racconti. Eccolo qua. No, ma Ruspanti adesso vi racconto un'altra cosa, allora. L'altra settimana, giovedì scorso, in tutta Italia le accademie della cucina trevisana hanno fatto lo stesso tema, il riuso alimentare. Ah. E ora amico, l'alta marca, siamo stati a Sarnaglia e Battaglia, che è meno sommarista, fra parentesi, dalla Libera, dove ho mangiato anche benissimo. Sì, va benissimo. E ho parlato sul riuso e polpette. Riuso alimentare. Mi ha detto, cioè, riuso alimentare, mio papà che chiamava Operazione Mistero, perché Tino te savi che se non te andavi mai a polpette. Ho saputo che anche Scapin da scrittore di Vicenza, che chiamava I Misteriose. In effetti, cioè, polpette si faceva con roba avanzata da casa. Perché adesso le fa anche con carne cotta, anche buon e mandarina, da miceo a merlengo, te mai buon anche in qualche parte. Le fanno anche per antipasto adesso le polpette, come antipasto già le polpette. Di tutto, sì, le fa di tutto. Ma la polpetta nostra era una tradizione, come se mangiava venerdì il pesce, no, anche il martedì alle polpette, perché il bollito si faceva una volta a settimana. Vero. Con l'esso, con la gallina, con la lingua, con la testina, con la tetina, con tutto quello che si metteva dentro, e si mangiava tutto quello che si mangiava, si faceva il grande pasto. E che brodo. Gli avanzi dopo, era brodo, soprattutto dopo, andava avanti 4-5 giorni il brodo. Dopo quello che era più, perché era pure il salse verdi, salse rosa per prepararemo in casa noi altri, si mangiava di lunedì, e il resto, l'avanzo, si faceva i polpetti. I polpetti con i tocchi di croste di formaggio, quel strutto, qualcosa, perché era molto semplice, no? Se i polpetti li fa con tutti, che mette dentro sì, fasioli, bisi, tutti, mortadella, invece era la cosa della carne. E adesso le fa schinsai, le fa rotonde, la nostra era rotonde e rognose un po' di, perché e saltava su strutto e non era tanto olio, casa nostra. E là, cioè, se mangiava 7-8 10 polpette a testa, le ultime, tutte le polpette che si faceva e mangiavamo, insomma, noi eravamo 5 fratelli dopo la guerra, eravamo 4 prima e uno è nato dopo, perciò eravamo mangiati, se accavavamo a fame, insomma. No? Era poi senza, con pochi denti. E l'esso era solo la domenica, in poche parole, che pensavo, poi era puente formaggini che si cosava, era con ragù, era tante cose, fongadina, era tutte cose che ormai si sta dimenticato, la cervella, chi è che vede la cervella che mi piacerebbe sapere la cervella, come mangiare il polmone, mi sono fatto dare 2 o 3 mesi fa da cosa, ho fatto una fongadina che mi ha fatta la di Torino, abbiamo perso anche le osterie, ho perso tutti le tradizioni del mezzo uovo qua cipollina. Il gusto di spunciare. Sa dov'è l'osteria da Maria? In via dei Daloro. In via dei Daloro hanno un brutto nome, osteria con l'H, che non mi piace. Osteria è osteria. Innovazioni linguistiche. Osteria è osteria. Mi scuso un attimo, Giorgio, la questione del riuso alimentare eccetera si aggancia molto bene alla questione dello spreco alimentare. Io ne ho parlato per lo spreco, il professor Segre e compagnia si va evidentemente a tirar fuori un argomento di scottante attualità, perché si sprecano quantità enormi. Ma perché i supermercati americani che hanno tutte porcarie, e invece noi i nostri, così, se vai in campagna se trova ancora la gallina e te mangi tutta, anche gli ossi, perché l'osso si tira, te trovi ancora il coniceto che non si più, adesso te trovi tutto pronto fatto, te metti in frigo perché te hai il frigo e resta che mi tocca buttare via, mi godo che ancora da 2 anni il frigo lì. Viene persa quella sussistenza perché ormai mangiamo tutti i giorni qualcosa. E siamo noi altri sbagliati, la cultura nostra, ma dopo che se tutti, non so, Alfredo fa un rinfresco o Celeste fa un rinfresco, tutta la roba che avanza la butta via. Perché se per caso la dà a qualcuno e dopo sta male, dagli subito al giorno stesso o la mattina dopo, dagli subito a scuola, sembra che sia qualche iniziativa in merito, deve essere immediato, perché altrimenti fa presto andar via. I supermercati che magari finisce oggi come data, il tempo di 10 giorni, 15 giorni, certo, per la verità, ma tutta quella roba chi la ha? E io li butto via, portega via, perché adesso hanno imparato abbastanza adesso sul riuso, in effetti, ma da un anno o due prima buttava via tutto quanto, insomma. Mi sembra che sia iniziative legislative in merito, proprio nel senso di facilitare questo compito istituzionale. C'è gente che va a prendere queste cose, ma anche i nostri cassonetti, una volta l'inceneritore della nostra cucina economica, non buttavamo via niente perché mangiamo tutto, fra parentesi, no? Adesso invece siamo pieni di mangiare. E l'uso in America, che adesso comincia così, di portarti via il mangiare che ti avanzi. Il doggy bag, esatto. Il doggy bag. Ma come di portarti anche via? L'avanzo che c'è nel piatto, che mi non mi permetteria neanche mai, io ciucciavo, mangiavo, portavo, però si può portarsi via. Oppure se puoi portarsi il vino, anche la bottiglia di vino, perché quando se ti ordini un bicchiere, perché non ti può ordinare la bottiglia se non resta là, invece te puoi portarti la bottiglia e bere quello che te vuole. E non so quasi c'è questi riusi insomma sì, adesso sì, che cercano sì, comincia, evidentemente. Ma la fame nel mondo è enorme e perciò tutto quanto il mondo civile in magna magnemo in abbondanza. Magnemo anche in abbondanza. Esagerando sì, ieri sera sono stato su una bocciofila ormai do primi ho mangiato tre secondi tre contorni, cioè, tutto. Beh, io sono stata in con 8 euro da prima che ho offerto, perché io ho offerto una volta che ho dato una cosa della bocciofila, una cosa, per dire, gli fa delle cose che mangiamo sempre, insomma. Io ho mangiato in una villa, per carità, non dico dove, ma ho mangiato malissimo. Beh, succede anche quello, evidentemente. Ma la villa ristorante? Sì, sì, sì. Una villa qui delle nostre. Beh, non sempre l'abito fa il monaco. Ma queste ville che adesso il nomina sui diventa ristoranti, bisogna sempre stare attenti anche a quello. Sì, tante volte uno non pensa, no? Dice vado a mangiare in villa. Ma c'è la villa che te frega. Sai il nome villa, c'è paura. Okay. Continuiamo con il nostro argomento. Allora, il discorso delle... L'altro giorno c'è stata la festa di morti. Parliamo di Maiar. Sì. E io la parte di mia moglie, i morti a Follina, il papà morto giovane, ancora nel 45, penso. Non è che ha conosciuto, aveva 2 anni la moglie, nella Follina hanno una tomba sotto il portico, è bellissima, sempre Follina, e siamo andati a mettere dei fiori e c'è il giorno dei morti, che poi il giorno dei morti è il 2 di novembre, sì, ma tutti la fa a festa dei morti, i santi, sì. che c'è il mio nome, che c'è il tuo nome, che c'è il nome di tutti quanti, non so, mi vorrei che il giorno dei morti fosse la festa. Era tutti quanti va in cimitero, insomma. Sì. E comunque da là sono andato a trovare Gigetto. Gigetto è a Miane, che non vado da tempo perché non sono buon pagare. Mi sono sempre ospite. E ora ho detto, me non voglio più, perché se non mi fa mangiare pagando, sì, per una volta do tre, se boh, ma a se mi pagare, mangiare quello che voglio. Facendo parte per i portoghesi che invece ma dicono che si mangia bene. È mega buttare i brassi al collo, se mangia sempre bene. Lavora con la moglie, lavora col figlio. Con passione. In cucina c'è il figlio. Io l'ho salvato una volta perché lavorava da lino e mi sono innamorato del lino, mi sono sposato a lino. E non sono più andata quando cosa è morto, sono andata una volta solo a trovare Ernesto, ho detto non sono più buono venire dentro qua, insomma, perché avevo abbracciato Ernesto la moglie. Non sono proprio la testa mia che non funziona. Mi dice che si mangia anche bene stesso, mi arrivo dal combai, mi portano una scatola così di funghi l'altro giorno che ho lavorato fino a mezzanotte per curarli. Gigetto è unico di posti buonissimi di cose, o se no che c'è adesso un altro che c'è un nevodo del lino che ha aperto l'osteria in via Brandolini d'Adda, si chiama, in via Brandolini a Solighetto, e te mangi per queste volte, mangi, te mette ai taglieri di carne, di robe, di antipasti, di speo, di fa, e te mangi ancora come i tempi nostri che mangiamo di tutto, insomma. Cioè, cambiare, andare in villa, non è che mi attira. Andavo a villa col Dulmer perché avevamo l'amico che è stata un'occasione di una riunione, riunione seguita da pasta. Perfetto. Va bene. Allora possiamo interromperci un attimo per andiamo un avanti intervallo con musicale canzone. Con Un'ora sola ti vorrei. Ostra. Per dirti quello che non sai. Thank you. sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai, per dirti ancora coi baci miei. Che cosa sei per me? Torniamo in studio con il nostro siparietto solito, Storia de che altri, durante il quale cerchiamo di dare conto delle sonorità di altre lingue. In questo caso abbiamo naturalmente di nuovo il bardo, nei 500 anni naturalmente della morte. Sonnet number 8 di William Shakespeare. Music to hear, why hearest thou music sadly? Sweets with sweets were not. Joy delights in joy. Why lovest thou that which thou receivest not gladly, or else receivest with pleasure thine annoy? If the true concord of well-tuned sound, by unions married, do offend thine ear, they do but sweetly chide thee, who confounds in singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how one string, sweet husband to another, strikes each in each by mutual ordering, resembling sire and child and happy mother, who all in one pleasing note do sing, whose speechless song, being many, seeming one, sings this to thee, thou single wilt prove none. Ma la cosa mi parla di Shakespeare, la è a destra del Milan. Tu che sei sol musica, perché l'ascolti con disdegno? Dolcezza ama dolcezza e gioia di gioie si diletta. Perché vuoi ascoltare qualcosa che ti annoia, o forse hai piacere nell'essere annoiato? Se l'armonioso suono di note ben accordate in un perfetto assieme offendono il tuo orecchio, e se t'accusan sol gentilmente perché confondi in singola armonia quanto scindere dovresti. Guarda come ogni corda dolcemente unita all'altra vibra ognuna su ognuna in ordine reciproco, sembrando padre figlio o felice madre che tutti insieme cantano la stessa dolce nota, queste mute voci riunite in un sol coro all'unisono ti dicono solo non sarai nessuno. Quanto è vero. Bellissima, cioè, grazie alla traduzione dei barbari e del Calà, perché la tua è dolcezza quello che hai letto, l'altro è volgare, lingua inglese. Pensa se Shakespeare fosse venuto a Treviso, pensa se eri innamorato a Treviso, se era stato a Treviso, sì, invece... dopo dove ero a Padova, ecco. E adesso noi proseguiamo. Sì. Chiudo io con cosa? Un minuto e mezzo. Ah, no, abbiamo parecchio. Abbiamo. Il discorso è che volevo parlare della mia piazza Rinaldi. Ah, la piazzetta Rinaldi. Io la chiamo piazza Fantin già Rinaldi, perché abito là da tempo e ora perciò... Allora, piazza Fantin stavolta. Una volta Ardizzoni mi ha portato dei pasti, mi ha fatto una festa, mi ha portato dei dolci e su la cosa... Lei che aveva messo Piazza Fantin, cioè, sul bordero del biglietto da pagare, e ora mi ha detto Piazza Fantin, già Rinaldi, ma l'hanno messa a posto abbastanza. Sì, ho visto l'altro giorno. Sì. Vediamo se acquista personalità, gli ho messo anche 3 alberi, comunque hanno fatto i sottoservizi che servivano, i gaccavia tutti i sassi. Non so dove si riga più a venduio, si riga più a portare via. E gli ha messo quei spaccai che costa Pischei. E vedemo se questa piazza adesso, Rinaldi, dopo vedremo che piazza di Battuti, ma insomma, se incontra... Il favore. Il favore incontra, perché se il favore, se l'uso della piazza può essere necessario di vita. Esatto. Siccome non c'è più... parcheggi, per nostra fortuna, e anche mi siamo arrivati in un cortiletto dove mettiamo le macchine, mi sarei propenso a cavarli via, perché forse in studio ho già un parcheggio, per fortuna, più eliminare macchine da Treviso, se vedi che la città vive nelle strade adesso, insomma. Nonostante le difficoltà di fatti in bicicletta si fa fatica a correre adesso, perché bisogna suonare il campanello, è un segnale importante, importantissimo. Si prende possesso della città, e che la strada fa parte della città, insomma. Vero che il marciapiede ci hanno fatto per il pedone, però se no, che se auto, una volta non era carrozze, ma una volta non era auto, sarebbe bellissimo, insomma. Un cambiamento, un po' una rivoluzione culturale, non è facile, per esempio, comincerei a dire no SUV in centro, è fuori strada. Beh, quelli si pensa grandi. Fuori strada, non in centro, non da Tori Putei. Questo è... Vabbè. Quello fa parte chiaramente di una della mentalità. Di una mentalità che si evolve anche, ringraziando Dio. Noi andavamo a piedi in bicicletta. È soltanto chi che vede bicicletta gli era già in tre bicicletta. Eppure gustavamo le bellezze dell'inverno, perché anche l'inverno ha le sue bellezze, queste mattinate fredde. Ma non c'è più il giasso ormai. Non che si slittava sui fossi nostri, con le candeline che venivano lungo dagli alberi, le candeline di ghiaccio che cascava. Adesso di inverni meravigliosi, insomma. Adesso l'inverno non lo sentiamo neanche più, a parte se pensa che una volta mi ha mandato, io ero sfollato ancora, mi ricordo, c'ero, mi hanno preso perché rompevo le scatole. Infatti mi ha mandato via da Borsa, andava a Merlengo da me, mi ha mandato su a neve, che era alta un metro e mezzo, e mi sono scaso e mi ha tirato su, insomma, dalla neve. Cioè, una volta nevicava, adesso nevica, che se un giorno va via subito, insomma, esatto. No. Una volta ci si divertiva a fare lo stampo nella neve, si buttava sulla neve. Mi vendevo gelati, perché con i tubetti si tiravo fuori il gelato. Ma è proprio... L'inverno era inverno. Ecco. L'inverno era una cosa che si attendeva, anche quello, insomma, tutte le stagioni, non si più stagioni ormai. No, ma anche Natale con la neve era bellissimo. Adesso invece si cammina per le strade come fosse... ci sono le evoluzioni anche del tempo. Certo. Bisogna. Il discorso dell'evoluzione del tempo comporta cosa? L'evoluzione di noi altri stessi. Stiamo perdendo un po' di fiducia perfino sui nostri fiori, perché non sanno più reagire a qualche cosa. Io per esempio, lo dico qua tranquillamente, mi faria un premio per chi, per la maestra che dà uno schiaffo al bambino, invece che va in prigione, perché ai nostri fiori, sì. Adesso ho i nipoti a casa che grida, silenzio, perché bisogna imporsi al bambino che sappia intanto l'autorità maggiore, ma anche il comportamento, ma anche il ecco, sì. Esattamente, il comportamento, i suoi limiti. Mm-hmm. Adesso fa tutti, ognuno 3.000 amici, non si conosce neanche perché ha il telefonino, te parli neanche, ma scusa, sono io a parlare con te, muso da con il telefonino. Che ormai ma è colpa nostra. Sì. È colpa nostra, noi abbiamo distrutto una civiltà. Purtroppo c'è anche contadina, perché adesso che mori anche i campi che mossai tutti da adesso, se riprende anche quella, piaceria anche a me. Vedendo quello che è successo dopo, che parlare di civiltà contadina non è fuori luogo assolutamente, perché c'era questa civiltà, questo rispetto e tutto quanto questo. Adesso mi parleria di un libro mio. Sì. Benissimo, come se inizio posso. Dopo sì, lei sì, ha dopo scritto, abbiamo ha scritto canzone, un libro? Sì. Un libro. No, benissimo. No, ho scritto un libro, ho fatto un libro. Importante. Posso parlare di libro? Sì, sicuramente. Sì. Allora, nel 78-77 ho finito l'architettura, e ho fatto un libro che avevo in testa da tempo. Treviso, l'ho chiamata Treviso l'ultima, dopo lo spiego anche perché. Di tutti i personaggi trevisani, fotografico. Ho scritto una piccola presentazione breve e poi ho messo a capo in fondo tutti i nomi, perché tutti conoscono Treviso. Chi sei che l'hanno? Va a vedere sull'indice chi c'è, perché sennò vuol dire che non ti sei trevisano. Ecco, quindi volutamente un'iconografia. L'iconografia trevigiana, ecco, lo creami prima di basso magari. Il discorso è che questo libro è andato a bruciare tutto quanto, è andato a venduto tutto. Quindi ha previsto un'esigenza che era latente? Latente forse era la prima, dopo viene fatto anche uno o due ancora a colori anche. Invece un bianco e nero con un pittore, con un fotografo che era da Conegliano di 20-22 anni, che non si conosceva neanche, non beveva vino, e dopo era imparato a bere il vino, perché mi con me, via Medrio, i primi tre mesi, marzo, aprile, maggio, così mi ho fatto, dopo settembre, ottobre, perché mi ho presentato prima di dicembre, insomma. Immagina Treviso, fammi questo, fammi quello, e fammi sul posto di lavoro, no faccia, non mi interessava la faccia. Mi interessava il contesto. Ero io a Busac, Casonga, scritto forse a Busanca del Grand'Angolo, ma sempre competente di questa cosa qua. E praticamente tutti mi hanno mandato il libro, mica ne godo uno con dei firme che mi ho fatto una cena una volta, con tante firme di segno, e dopo uno che me lo tengo, ma non cosa più, ho regalato, finito tutto quanto. E allora che ne ho adesso due copie, che ho fatto provare alle Eucronie, fammi una copia, dimmi cosa che mi costa, faccio 100 copie, manco dopo o venderò a 20, a 25 quello che mi costa il minimo possibile, chiaro. Insomma, secondo cosa che mi costa. Per non perdere praticamente Treviso l'ultima, perché siamo andati per fare una fotografia alla Contessina Rinaldi, che era San Giuseppe, dagli anziani San Giuseppe. La suora Nevarda, ma mi prendete in giro, fa, no, ma adesso siamo io per fotografarlo. L'abbiamo seppellita ieri. E mi ha dato un biglietto da visita. E ora mi ha messo nome Treviso l'ultima, perché fatta scomparire tra le fotografie del coso, con le scena di Rinaldi. Certo. E anche la firma di Rinaldi, è un ricordo che è scomparso del coso. E qua vedete tutti i personaggi, dal sindaco Massaroi, da Alfredo Beltrame, da Maffioi, da Gaianti, il notaio, dal pretore Lavalle, tutte le varie persone, da Chirichin, da tutte le cose, che è un ricordo. Perfetto, allora adesso ci fermiamo un secondo per un ulteriore brano musicale e dopo continuiamo con questo ragionamento. La musica è finita. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente, nemmeno una parola, l'accenno ad un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me? Cosa non farei perché questo amore diventi per te più forte che mai? Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci sola più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Eccoci di nuovo in studio con il nostro architetto che continuerà la sua carrellata. No, la mia carrellata. Racconto un libro che ancora mi sono innamorato, che adesso spero di stamparne pochi dei libri per 50-100 amici che mi domandano, insomma, e che riporta una storia di altri tempi. 1977, di altri tempi dove che era ancora Lao Mantelli, che era rappresentante della Guttalin, ma suonava il violino, si metteva insieme ai tavoli poi australie, suonava il violino e aveva un libro, aveva un piatto fuori da casa, la mia casa è aperta al sole, alla musica e agli amici. Lo spirito Mantelli, di un tempo proprio. Mantelli è il papà di uno cosa che aveva commesso, dopo che c'era Nane. Nane che vendeva Bowie, che vendeva sì, mi ricordo. Maronilli, il mio primo parolo, un falegname, abbiamo fatto di lavori per il vescovo in palissandro, abbiamo fatto una camera, letto e mobili in palissandro qua, dopo che ho fatto a Asolo del Conte dell'Ordo, abbiamo fatto dei lavori bellissimi. De Marchi, che vendeva automobili invece. Bellissimo, ancora vivo. L'unico e che vendeva vivo. Il castagnasso anche. Bruno Costa, un poliziotto rompiscate ma simpatico. Toccava da Beltrame, era quello che emergeva a Porchetta, come che arrivava e cavava via Scorsa. La Porchetta la faceva in piazza, in via Calmaggiore e Alfredo, miglior porchetta del mondo, e quando che cavavi a crosta avanti se mettevamo sentaglia così. A mangiare così? Mi ricordo a crosta della porchetta. Adesso non c'è nessuna. Penso proprio. Cioè, ho messo la mano così, tac, mi ha dato una corteata. Dopo che era qui dal mercato, quasi mattaresaio, che lo va il coso. Cioè, un microcosmo proprio straordinario. Zucchello Arturo che vende ancora formaggio al mercato. Ancora. La benvenuti. Siamo andati a sentire la benvenuti al comunale con Brigioin e con Salomone, e c'era la Totti dal Monte e sul camerino. Siamo andati a salutarla. Brigioin, che la conosciamo. E siamo scontrati con Chirighin, con i quattro suoi assessori. Sì. La Totti del Monte a Nevarda dice prima gli amici e poi le autorità. Mi sono fatto addosso, che bello. Tipico anche questo del Monte. Sì, veramente. Guarda, sta cosa è meraviglioso. Essere che ha fatto fare Mario del Monaco. E che aveva su 3-4 pose, una sul pianoforte, una fora, una cosa. Sta quasi a sentare su un leggio enorme, su un poltrone enorme, grande artista. Dopo così Giovanni Pinareo, che è canzio del Nanni coso, Pinareo, Gino Giudici che vendeva il coso, che è quello dei gomme, del matalassaio, Moretti, il vecchio Moretti. Il vecchio che era là in fondo, sì sì. Dopo che sei a sorella Danino Sporco, dopo che era la cosa... Sporco? Non ho capito bene. No, Danino Sporco, che sarà che Danino, quello della colonna. Quella colonna che vendeva ma che chiamava Danino Sporco, perché tutti che chiamava Sporco nel senso, invece nessuno che mai capiva, io spaccava io, crepava io e ciotoletti andava che metteva il Clinton, perché così faceva la riga di nero. Io ho una fotografia dove che tutto un velo su tutto il mangiare, che c'è il velo tutto quando era appassionato delle cose. Beh, insomma, sembrano quasi praticamente storie vere che sembrano delle favole. No, ma veramente. Sta quasi a Marcassa, che mi ha fatto 4 fotografie prima, se no, non sta tormendo, poi rideva come le cose. Scoma e Pompier, questi qua. La custodia di biciclette che era vicino prima di entrare all'ospedale, e praticamente di una francese che dopo, perché sto mio amico fotografo andava a Parigi, che ha 50 persone con da cebre lavora, e che scrive che il personaggio, il guidon della bici qua, che scrive in francese così, e dice a mano sua bicicletta che è a sua roba, no sua moglie che è in fianco, non ne frega niente di sua moglie in fianco, è Maria moglie in fianco, è bellissimo. Zacchieri, conoscevi Zacchieri in via d'Agostino, che no, faceva Zacchieri ben sentito nominare, no. Zacchieri era un sellaio, lavorava con dei brocche del cavallo, roba, faceva tutte le robe del cavallo a Sant'Agostino, dove c'è il calzolaio mio, capito. Ma si buttava ogni mezzogiorno dal ponte ai canottieri dal ponte del genio civile là, così. Strade 8, Rizzaiolo di Treviso, pensiero e azione. Tu quasi a mamma dell'Elle che sei arrabbiata con me perché se vede i mostacci, ho fatto il manifesto se vede i mostacci a fruttariola della pescheria. Ah sì sì, la mamma dell'Elle. E sta quasi Aldo Pacera col Deo che contava Barsetti. Ecco qua. Il pesce, no? Questo è Marcuzzo. Che i gatti era pugilato, che chiamavamo Loco perché vendeva oche, e Nino Sporco, che è sto qua fuora della colonna. Birra Poletti, che ha comandato adesso perché Birra Poletti è rientrata di moda, e Nino Sporco è uno che e aveva le fragoine col Clinton, che ne faceva. Poi mi diceva: guarda, che te hai ancora da pagarmi qui di ieri, quando si via un vigno con bionda, mi ero con a semestare. Dopo tutti i fratelli di Albertrami, Aramis, Rovenio, questi bandetti sotto il porto, questo qua era il carnevale, mister Carnevale, ingegner Tonon, Marchiol, Ferrarese. Cioè, i personaggi, sì, Gasper e Dottose, queste qua. Gasper, il noto pittore. Nostro pittore, queste qua, e due sorelle Frizzo, che ne ho più viste. Vuoi dire anche le sorelle Ramon? Forcolin. Forcolin. Mamma, lo ricordo. Dopo questa era a Giuliana del comune di Treviso, che andavamo davanti tutti i geometri. do foto di Mazzaroli, Mazzaroli perché il sindaco e si è fatto vedere con la sua sciarpa e così, ma il sindaco conosce in bicicletta, mi ha detto, perché era già venuto da basso e si è fatto fare in veste di ciclista. E Maria non l'ha messa. Maria. E Maria chi? La segretaria delle... Sì, è stata tanti anni. Sì, no, ma amico, ho messo la Giuliana che era dal nostro reparto, diciamo, io era quella che ne rompeva le scarpe. Costa, Bruno Costa, il comunista, Soncin, l'antiquario, Lucchetta, il falsario, e donne. Una congrega proprio. Una persona a Gigetta, dove che te mangi via, a Gigetta che era in via inferiore, sto qua, era Tony Spin. A Gigia si era qui. Tony Spin. La Gigia è quella di Barberia? De Barberia, sì. Ecco. Questa qua era una custodia biciclette che era in via San Vito, prima del Defanti, cosa? Caseato con il suo cameriere. Portico scuro a Veccia Adele Casellato. Me lo ricordo. Mio amico che è morto poco tempo fa. Me lo ricordo, sì. Le custode del museo, Covaschi, che era a porta, come si chiama, il video dei Paestra Verdi, Gimo Gobbi, Fanti. Ma chi c'è rimasto adesso dei personaggi? Che ne sei tre dei vivi: Ciccio Vanin, questo qua, La Valle e De Marchi. La Valle che era, non era il pretore. Il pretore. Mi ha fatto a villa. Questo qua è il famoso Checa, quello che ha portato la ragazzina di Casale, da Casale. Signore e signore. E ora mi so tutta la storia da prima. La signora, la mamma di Ado Campeol, questo qua c'è con Vittorio Sbarra, Ortica e cosa. Ortica qua, e Spuacetti. Spuacetti, insieme col Cocco, la Gianni al Cocco. Questo qua, Piero Bora e Pararia, perché era da farmi come che sia davanti a porta, mi pare Poliseni. Poliseni, sì. Piazza San Vito. Allora, Fini tocchetto Anerina della Loca Bianca. Tutti i personaggi che adesso... Perché sto qua, Mirko Trevisanello. Trevisanello anche mi ricordo. Sono Trevisanello. A Sorella di Palmira che vendeva fiori in piazza, sì. A signora Stolfi, Nino Bosio con l'aureola. Signora Stolfi non mi ricordo. Con sua sorella. Sì. Chirichindo qua, era solitario, era... un misantropo, fumava tanto, era acciappata in fondo, era soletto. Don Cesare Girotto, poi finimo con la dottoressa cosa che ne siete tutti, Toe naturalmente, Toe. Che andiamo a replicare. Ma la dottoressa? La dottoressa Olivi. Insomma, praticamente una grande dottoressa Olivi, sì. Una carrellata di trevisanità ad altri tempi. Che... ma io ne conosco tanti. Proprio Antonio. Storie da noi altri, veramente. Ne conosco tanti, perché. Non sappiamo come ringraziare il nostro amico. Basta con parlare anche a Massa. Grazie di tutto, è stato veramente un piacere. Piacere anche perché va a ricordare dei personaggi straordinari che sembrano come dire mitologici, in realtà sono stati veri. Parte di una comunità vera quale è stata la nostra. In effetti sta in una parte di Treviso e la città di Treviso non è mitologica, è da vivere giorno per giorno. Perfetto. Comunque noi aspettiamo di nuovo una sua... Se invece a me mi viene a parlare. Va bene, benissimo. D'accordo. Alla prossima volta. Alla prossima. Noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori e diamo appuntamento domenica prossima. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.